Componimento 144esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Né così bello il sol già mai levarsi, quando il ciel fosse più de nebbia scarco. Né dopo pioggia vidi il celeste arco per l'aere in color tanti variarsi, in quanti fiammeggiando trasformarsi nel dì ch'io presi l'amoroso incarco, quel viso al quale, e son del mio dir parco, nulla cosa mortal pote agguagliarsi. I vidi amor che begli occhi volgea, soave sì, ch'ogni altra vista oscura da indi in qua m'incominciò a parere. Sennuccio, il vidi e l'arco che tendea, tal che mia vita poi non fu secura, ed è sì vaga ancor del rivedere. Fine del componimento.